Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Non ci fosse questo stramaledetto virus, il tema di giornata sarebbero senza dubbio le parole del Papa che ieri in un documentario diffuso alla Festa del Cinema di Roma ha non solo aperto, ma si è detto favorevole alle unioni civili tra omosessuali. Una svolta storica dopo anni di battaglie della Chiesa contro ogni tipo di riconoscimento. Ma c'è il virus e almeno un po' ovviamente bisogna darne conto, perché l'impatto si sente anche in termini di misure restrittive. Da lunedì in Lombardia le scuole superiori saranno tutte con didattica a distanza. Così sarà anche a Roma, mentre da stasera scatta in Lombardia il coprifuoco. Coprifuoco ci sarà anche nel Lazio, mentre si starebbero valutando misure nazionali più restrittive. E i numeri. Ieri 56 le persone in più in terapia intensiva, 600 quelle ricoverate con sintomi. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Sono le 6 e 31 minuti e 26 secondi per essere esatti. È di giovedì 22 ottobre. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Eccoci con Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, il resto della redazione, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Francesco Ceraffo, i nostri autori. Mi dispiace per l'ascoltatore che ci scrive per primo dicendoci: buongiorno Simone, mi fanno arrabbiare, non la mette proprio così, i fumatori in strada con la mascherina abbassata. E che le devo dire? Ognuno si irrita per cui si irrita. A me irrita invece, per esempio, che ci sia un cluster di contagi nel reparto di cardiologia dell'ospedale Sacco di Milano. 22 persone. Questa è una cosa che trovo francamente incredibile. Da fonti interne all'ospedale fanno sapere che il punto è che sono state distribuite delle mascherine, dalla regione sono state distribuite delle mascherine non idonee e quindi si sono ammalati. Io non so che dire. Si possono distribuire negli ospedali delle mascherine non idonee? Dall'altra parte si dice no, che il personale in settembre ha fatto una grigliata. Che sia l'una o l'altra spiegazione è... non so cosa dire, non so cosa dire, veramente. Ed eccoci, con le parole del Papa. Sentiamone un passaggio in spagnolo, caro Carmelo Lauricella, via. Le persone omosessuali hanno diritto a stare nella famiglia. Sono figli di Dio, hanno diritto a una famiglia. Non si può echare della famiglia a nadie. Lo che dobbiamo fare è una legge di convivenza civile. Eccolo qua, le persone omosessuali sono figli di Dio, hanno diritto a una famiglia, nessuno dovrebbe essere stromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili, in questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo, appunto. È chiaramente una svolta storica, se volete dire la vostra su questo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp. È un pezzo di questo ed è un pezzo anche, se volete, della affermazione dell'autorità di Francesco in una battaglia intestina alla Chiesa tra tradizionalisti e aperturisti su alcune cose. Quindi c'è anche un elemento politico, se volete, che è uno spunto interessante. E però, ripeto, è una svolta storica. Così... il teologo Bruno Forte, che è anche arcivescovo di Chieti Vasto, ieri al TG1. Non può esserci confusione fra famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione. Nella visione cristiana, insomma, la famiglia è quella formata da un uomo e una donna, uniti nel sacramento del matrimonio, aperti alla procreazione. Il Papa afferma anche la dignità di ogni persona umana, anche delle persone omosessuali. Dunque, due persone omosessuali che fanno la scelta di vivere insieme hanno il diritto di poter essere tutelati dalla legge. Così, così Bruno Forte. Interviene anche la politica, nella fattispecie Matteo Salvini. Rispetto alle parole del Santo Padre, e non mi permetto di commentare le parole del Santo Padre, a me interessa che non ci vadano di mezzo i bambini. Per quello che mi riguarda, il bambino ha una mamma e un papà, viene al mondo se ci sono una mamma e un papà, e viene adottato se ci sono una mamma e un papà. La posizione della Lega è quella che Salvini ha sempre espresso, del resto. Più avanti torneremo a parlarne, perché in questo documentario c'è anche una telefonata che il Papa fa a una persona, un uomo, si chiama Andrea Rubera, che col suo compagno ha tre figli e che scrisse una lettera a Francesco dicendogli: caro Papa Francesco, ho problemi ad andare in parrocchia, non so esattamente che cosa fare, che cosa devo fare. E un giorno gli arriva questa telefonata sul cellulare ed è il Papa che gli dice: guardi, ci vada, parli col suo parroco e ci vada. Andrea Rubera sarà con noi, ci faremo raccontare un po' questa storia di questa, la storia di questa telefonata che trovate anche sparsa su qualche giornale oggi. Cara Marianna Aprile, come stai? Buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi, eccoci. Tutto bene. Allora, Marianna, un cambiamento forte, radicale. Lo stesso Bergoglio in passato si era espresso, io non so quanto per sue convinzioni personali o per tenere insieme il Vaticano e la Chiesa, si era espresso contro leggi sulle unioni civili o quantomeno le conferenze episcopali nel mondo, che poi sono di fatto l'emanazione della Chiesa, su questo si erano espresse abbastanza duramente. Un cambiamento forte, eh? Sì, no, è un lavoro diplomatico che Bergoglio sta portando avanti dall'inizio del suo pontificato. Io credo che tutti ricordiamo quando, poco dopo essere stato eletto Papa, in una conferenza stampa durante un viaggio, una visita internazionale, disse: chi sono io per giudicare gli omosessuali? Fu all'epoca una frase dirompente, anche perché ricordiamo Bergoglio veniva dopo Ratzinger, veniva dopo tutta una serie di posizioni in materia piuttosto lontane da quella che commentiamo oggi. Sta facendo un percorso molto lungo, molto diplomatico, molto politico, dicevi bene tu. Cioè, il fatto che esca adesso questa posizione in maniera così netta non è casuale, niente è casuale nella comunicazione di Francesco. Sì, chissà quanto è collegato, mi veniva da pensare, Marianna, e questo sarà da ragionarci, a tutto quello che sta succedendo in merito allo scandalo delle finanze vaticane, che è collegato anche alla battaglia tra i tradizionalisti e i riformatori all'interno della Chiesa. Queste sono le grandi questioni di politica vaticana nelle quali adesso non vorrei addentrarmi perché è un po' troppo presto la mattina, magari ci torno. È una frase che ricorda bene a tutti chi è che è il Papa. Sì, esattamente, decido io, ragazzi, è una teocrazia, decido io, non ci sono storie. Poi c'è ovviamente tutta la questione Covid nella giornata di oggi. Prima vi vorrei far sentire un paio di voci dal campo, anzi una voce dal campo, che è quella di Mario Balzanelli, il presidente del 118, del sistema di servizio di assistenza. Sentiamo. Tra chi si spaventa, chi lamenta situazioni obiettive per altri motivi oggettivamente correlabili ad emergenze e urgenze sanitarie ordinarie, chiamiamole così, e questi quadri che possono ricondurre a situazioni di casi sospetti Covid-19 o conclamati, noi abbiamo un aumento importante del numero delle chiamate, cui dobbiamo rispondere con un numero maggiore di interventi, quindi il sistema 118 è in una condizione di stress impegnativo estremamente rilevante. si sta esasperando, c'è gente che sta ore fuori dai pronto soccorso, che ha bisogno di andare in bagno, ci sono persone che hanno fame, vogliono mangiare, noi abbiamo una difficoltà di presa in carico da parte dei reparti. Il tema diventa quindi metterci nelle condizioni di essere pienamente operativi. Oh, sembra di sentire le voci alle quali eravamo abituati a marzo, anche se i numeri ci direbbero che la situazione è diversa. C'è tutta la questione ovviamente delle misure restrittive. Misure restrittive come l'ordinanza della Regione Lombardia che fa scattare il coprifuoco per stasera dalle 23 alle 5 del mattino, fa scattare la didattica a distanza da lunedì per tutti i ragazzi delle scuole superiori, didattica a distanza anche a Roma. Cosa possiamo far sentire? Beh, forse il direttore del laboratorio di virologia del San Raffaele, Clementi, che dice di fatto, dice in sostanza, tutti questi sono pannicelli caldi. Sentiamo. Io penso che l'incidenza delle chiusure che abbiamo già fatto sarà minima. Almeno di quelle che abbiamo già fatto, vedremo che cosa succederà con le prossime. Poi c'è l'aspetto politico, se vogliamo, perché nelle scorse ore Matteo Salvini è andato, ha detto ci voglio vedere chiaro, non mi va bene questa ordinanza per il coprifuoco della Regione Lombardia, si presenta in Regione Lombardia, discute con Fontana e poi passate 24 ore Fontana firma lo stesso l'ordinanza, al che Salvini dice non è vero che sono contrario al coprifuoco, in realtà tre giorni prima aveva dichiarato l'esatto opposto, però sentiamolo. Non so lei da che cosa abbia tratto che io sono contrario, quando ci sono scelte di sindaci e governatori sono abituato a rispettare le scelte di sindaci e governatori, soprattutto quando c'è di mezzo la salute delle persone. Semplicemente chiediamo al governo di mantenere gli impegni economici presi con le famiglie, i commercianti e i lavoratori coinvolti da queste chiusure, a differenza del passato. Oh, preparati Mariana che adesso pioveranno gli WhatsApp degli ascoltatori che ci diranno che siamo antileghisti, però qua oggettivamente c'è un problema di coerenza, così come sottolineiamo gli elementi di incoerenza del governo, lo facciamo spesso, delle singole regioni, da De Luca in avanti, e beh qua un po' l'atteggiamento ondivago che abbiamo visto, chiedo scusa se ricorre la stessa parola, nella prima ondata lo vediamo anche nella seconda, non solo da Salvini, però è l'esempio un po' più lampante. Sì, no, cioè, Salvini ha sempre avuto qualche problema a settarsi sulla posizione apriamo tutto, chiudiamo tutto, non è una novità, però è solo uno dei déjà vu di questa seconda ondata, perché quello che sta facendo Salvini in questa fase ricalca esattamente quello che ha fatto il governo. Cioè, stanno replicando entrambi i propri comportamenti, perché anche sulla storia delle chiusure, del lockdown, mirato, non mirato, stringiamo, non stringiamo, io sento un odore fortissimo di Alzano, di Alzano il membro, cioè c'è questo rimpallo a chi si debba intestare una misura impopolare. Qual è il risultato? Su Alzano il membro, ovviamente per la rapidità con cui si verificava il problema, le cose si sono accelerate da sole. In questa fase che succede? Che Conte sta usando un metodo vaccinale per il lockdown, cioè sta facendo inoculare piccole dosi di lockdown ai governatori prima di arrivare con la dose di richiamo finale. Quella massiccia che arriva dal governo. Quella massiccia che ci chiuderà tutti in casa, che sappiamo tutti che arriverà, solo che nel frattempo lascia il lavoro sporco di farci fare la bocca a una nuova reclusione, a un nuovo danno economico delle singole famiglie e delle aziende, lo lascia fare ai governatori, che è lo stesso schema usato durante le primissime fasi della prima ondata. Che va benissimo, cioè la politica purtroppo e per fortuna è anche questo, ma è un comportamento molto cinico da parte di Salvini nel caso delle chiusure lombarde e da parte del governo centrale nel caso di tutto il resto. Buon punto Mariana. Oh, mi fanno notare un ascoltatore, anche nel Lazio il presidente della regione discute preventivamente i suoi provvedimenti col segretario del suo partito di riferimento. Sì, perché coincidono in effetti, e Nicola Zingaretti sia il segretario del partito che il presidente della regione. E poi comincia, Marianna, questa storia che abbiamo già visto a febbraio, che abbiamo deciso di montare con un po' di musica. Questa. Guardi, io l'unico contatto col Presidente del Consiglio degli ultimi mesi l'ho avuto via telefono settimana scorsa per 40 secondi, prima che andasse in diretta televisiva. Prendo atto, e lo lascio a voi come riflessione, del fatto che il capo dell'opposizione ha avuto la fortuna di parlare negli ultimi mesi per una quarantina di secondi col Presidente del Consiglio al telefono l'altra sera alle 21:31, mentre evidentemente Fedez e la Ferragni avranno cose più importanti da proporre. Il telefono no, io non cedo per prima. Ti telefoni o no, chissà chi vincerà. Io con Forza Italia il dialogo è costante, quando io chiamo se non c'è la disponibilità a parlare vengo subito richiamato, c'è un confronto costante, molto istituzionale, molto nel rispetto dei ruoli. Con Meloni anche, con la Giorgia Meloni anche, siamo confrontati varie volte e ci confrontiamo. Con Salvini ho qualche difficoltà perché quando gli lascio messaggi non vengo richiamato. Niente, Marianna, come le coppie che si rompono, ancora non sono riusciti a trovare una quadra, Conte e Salvini. Cioè questo amore che è finito improvvisamente nell'agosto del 2019 e sono rimasti là con le piccole ripicche, mi chiami, non ti chiamo, ti chiamo, non mi rispondi, eccetera, eccetera. Un visualizzato non risposto del Presidente del Consiglio. Sì. No, però al di là di tutto, cioè, credo che Conte sia l'unico a non riuscire a comunicare con Salvini in Italia, nel senso che se c'è una cosa facile in questo paese è riuscire a comunicare con Salvini, sì, e viceversa, diciamo, sì, essere contattati dallo stesso. Però è un tema, nel senso che Salvini ovviamente, a proposito di cinismo e battaglie politiche, sta cercando di riconquistare posizioni del centrodestra. Per lui in questa fase l'unico modo è distaccarsi completamente da qualsiasi accusa di connivenza anche remota con le decisioni del governo. Lascia che eventuali messaggi e telefonate intercorrano solo tra Forza Italia e eventualmente Giorgia Meloni, e credo che Salvini speri che ci caschi la Meloni. Da precisare, Marianna, da precisare che quell'audio abbiamo fatto sentire di Conte in realtà è di settembre. Quando non aveva il numero giusto. Esattamente. Sì. Però sì, questo è uno spunto, un altro spunto politico interessante, traffico. Che poi diciamocelo, sarebbe doveroso che governo e opposizione si consultassero in fasi così delicate. Io non so di chi sia la colpa del fatto che non riescono a sentirsi, però mi sembra francamente strano appunto che dal governo a Palazzo Chigi non si riesca a fare una telefonata e a incontrare, magari non fisicamente, magari in videochiamata, il leader a questo punto del centrodestra, che è proprio Matteo Salvini. Ci prendiamo 5 minuti per trattare un altro argomento, che è questo. Nei giorni scorsi un decreto del Ministero della Salute, guidato da Roberto Speranza, ha inserito tra i medicinali con sostanze stupefacenti le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis. È un pezzo di tutto quel mondo che grossolanamente chiamiamo cannabis light. Il cannabidiolo è una delle componenti della cannabis, è la componente considerata, per spiegarvelo facilmente, la componente considerata terapeutica, è alla base di alcuni medicinali, in particolare contro la terapia del dolore, quello considerato che ha effetti da psicotropi e l'altro è il THC. Ebbene, il rischio qual è? Ci sembra di capire, caro Luca Fiorentino, fondatore di Cannabidiol Distribution, che è una delle maggiori aziende italiane nel settore della cannabis light, il rischio è di mettere fuori legge voi e tutti quelli che si trovano nel settore. Buongiorno. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito. Sì, purtroppo non è l'unica cosa anomala che è accaduta nell'ultimo mese, perché il Ministero della Salute, con l'inserimento dell'olio di CBD all'interno della tabella B del testo unico delle sostanze stupefacenti, vuol dire tagliare una grossa fetta di mercato all'intero indotto economico di questa filiera. L'olio di CBD rappresenta per molte aziende il 40-50% di fatturato. E ci tengo a precisare che parliamo di un prodotto che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito più volte non essere psicotropo e che non debba essere inserito all'interno delle tabelle delle sostanze stupefacenti. Quindi siamo l'unico paese che è andato verso la direzione dell'olio di CBD come sostanza psicotropa. Ma la cosa ancora più grave è che la settimana prima l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fatto l'azione più proibizionista degli ultimi 100 anni, vietando la commercializzazione di qualsiasi prodotto derivante dalla coltivazione della canapa, quindi per assurdo anche caramelle, magliette, tessuti, snack, sì, e quant'altro, all'interno di migliaia di esercizi commerciali in tutta Italia, tra cui soprattutto tabaccherie. E gran parte delle società del settore lavorano maggiormente con le tabaccherie. Sì. Ascolti Fiorentino, però è vero anche che voi vi siete inseriti in un contesto legale, lo sappiamo perfettamente, piuttosto incerto, no? Cioè quello della cannabis light è un settore regolamentato in maniera un po' strana complessivamente e che continua a suscitare grandissime polemiche, perché ogni volta che se ne parla emerge qualcuno che dice no, attenzione, questa è droga, non, questi negozi non possono stare aperti, eccetera eccetera. Beh, verissimo, però vanno contro qualsiasi parere scientifico su cui si sono basati la maggior parte degli studi. Parliamo di un prodotto, ripeto, che non ha efficacia drogante e che è un prodotto totalmente naturale. Parliamo di fiori di canapa. A livello legislativo, purtroppo la 242, che è la legge su cui si basa questo settore, il legislatore non ha dato grandi possibilità, cioè ha lasciato spazi interpretativi differenti. Non siamo noi che ci siamo infilati in un vuoto normativo, anche perché la 242 parla principalmente di coltivazione di canapa. Adesso è ovvio che purtroppo la stessa legge non parla di commercio di fiori, ma è ovvio che se io sono un'impresa agricola e posso produrre canapa, non lo faccio per mangiarmela, ma la faccio per commercializzarla. Purtroppo c'è questo gap legislativo che sembrerebbe essere stato un errore da parte del legislatore, ma in ogni caso qualsiasi tribunale farete ricorso contro questo decreto del Ministero della Salute? Maggiormente sul decreto pensiamo ci saranno dei confronti con lo stesso ministero, probabilmente vedremo cosa si può fare. Maggiormente quello che faremo noi personalmente come azienda è un'azione contro l'Agenzia Dogana dei Monopoli, che è lì l'azione principale che è stata fatta. L'olio di CBD rappresenta una gran parte di fatturato dell'indotto economico e porterà alla chiusura di moltissime aziende, e noi stimiamo che si perderanno oltre 8.000 posti di lavoro da qui a 4 mesi. Ma l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli ha fatto un'azione ancora maggiormente proibizionista. Calcoliamo che, questo non l'ha evidenziato nessuno, ma ad oggi il Movimento 5 Stelle, che è il partito che si sta esponendo maggiormente a favore di questo settore, nessuno evidenzia il fatto che il direttore dell'Agenzia Dogane dei Monopoli è un 5 Stelle, Marco Minnenna, precedentemente assessore della Giunta Raggi, che ha fatto questa iniziativa di sua mano. Allora, scrive un ascoltatore: il legislatore fa di ogni erba un fascio. Vabbè, battutaccia. Ci fermiamo qua. Grazie Marianna Aprile, giornalista di oggi e autrice, lo ricordo sempre, il suo libro Il Grande Inganno. Lo faccio Marianna, mi è piaciuta, Il Grande Inganno, First Lady, Nemiche Perfette ed Eroine Silenti, Così la politica nasconde le donne, edito da PM. Grazie anche a Luca Fiorentino, fondatore di Cannabidiol Distribution, appunto una delle maggiori aziende italiane nel settore della cannabis light, che impiega 15.000 persone, fattura 150 milioni di euro e che adesso è un po' a rischio. GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa. Tra le altre cose mi hanno colpito questa intervista alla ministra Dadone, alla ministra della pubblica amministrazione, dalla quale apprendo che il settore pubblico impiego si sta preparando ad uno sciopero. Uno sciopero adesso. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it.